Con 66 anni e 11 mesi di età media, gli italiani saranno in Europa quelli che vanno in pensione più tardi da qui al 2020. Dopo essere stati sollecitati dall'Europa a riformare la previdenza perché troppo generosa in passato, adesso l'Italia si trova dunque ad essere tra i paesi più virtuosi. 66 anni e 11 mesi dell'Italia vanno infatti confrontati con i 65 anni e 9 mesi della solitamente virtuosa Germania e i 66 anni della Danimarca. La proiezione è contenuta nel libro bianco della Commissione europea. L'Italia a questo punto è uno dei pochissimi paesi, assieme proprio alla Germania e all'Ungheria, a non avere raccomandazioni specifiche su questa materia. Grazie alle nuove riforme del sistema previdenziale e al meccanismo che lega l'età di pensionamento alla speranza di vita, il nostro paese avrà l'età più alta d'uscita dal lavoro anche dopo il 2020, arrivando a 70 anni e 3 mesi per uomini e donne nel 2060, superando ampiamente la Germania, il Regno Unito e l'Irlanda. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.